Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago, siamo stremati. Sì, io sono stremato. Come sì, da Drago? Almeno quello. Ma sei scettico anche su quello? Sei sì. Con me, dai. Almeno su quello. Non scettico sul nome. Vabbè, non essere scettico, però, su questa giornata fantastica. Perché oggi, guarda, perché? Che dobbiamo festeggiare con un po' di giorni di ritardo, come nostra abitudine, ma d'altra parte siamo all'asilo, le cose ci arrivano un po' filtrate. Festeggiamo un momento importante, un giorno importante per i bambini, perché è stato firmato il manifesto per i diritti del bambino nato prematuro. Sì, prematuro. Sì, prematuro. Finalmente anche i bambini nati prematuri potranno godere di tutti i diritti di cui già godono gli altri bambini. No, è una notizia bellissima, no? Poi dove l'hai letta sta roba? L'ho letta sui giornali, un'iniziativa italiana, ne hanno parlato, insomma. Vabbè, si vede che è italiana. Vabbè, allora, dai, in pratica cerchiamo di capire di cosa parla questo manifesto. Il manifesto afferma che chi nasce prematuro è a tutti gli effetti una persona. Interessantissimo. E che ha il diritto di nascere in un luogo dotato di tutto il necessario per la sua sopravvivenza. Quindi certo. Non facevano questo manifesto, Drago, i bambini prematuri li buttavano direttamente nel cassonetto dell'umido. Vabbè, certo. Ma chi l'ha scritta sta roba? Forse un ex bambino prematuro. L'angolo della poesia. Cari bambini, è il momento della poesia. Oggi leggeremo una poesia in tedesco, in lingua originale e poi in traduzione italiana. In lingua originale si intitola, non te l'ho scritto, ma è Ein Winterabend. Ein Winterabend. Traduzione, sera d'inverno. Wenn der Schnee ans Fenster fällt. Quando la neve cade alla finestra. Lang die Abendglocke läutet. A lungo suona la campana serale. Vielen ist der Tisch bereitet. A molti la mensa è preparata. Und das Haus ist wohl bestellt. E la casa bene fornita. Mancher auf der Wanderschaft. Più di uno nel peregrinare. Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. Arriva alla porta per oscuri sentieri. Golden blüht der Baum der Gnaden. Aureo fiorisce della grazia l'albero. Aus der Erde kühlen Saft. Dal fresco succo della terra. Wanderer tritt still herein. Il viandante entra silenzioso. Schmerz versteinerte die Schwelle. Dolore impietra la soglia. Da erglänzt in reiner Helle. Ma ecco, risplende in puro chiarore. Auf dem Tische Brot und Wein. Sulla tavola pane e vino. Drago, tu hai il dono di saper descrivere l'indescrivibile. Ma no, ho soltanto letto una poesia di Georg Trakl, poi c'era anche K. Quindi... Drago, scusa, ma quello lì, quello che ti ha parlato, sì. Ma era Clint Eastwood. Ma veramente era il doppiatore di Clint Eastwood, però io mi accontento, sai, lui non parla bene l'italiano. Chi se ne frega. Vabbè. E il mio spirito guida Clint Eastwood, non lo sai, è eccezionale. Ma da quando? È già da un po', grande Clint, io e lui ci conosciamo bene, vero Clint? Rammenta al Drago che io sono in pensione. No, forse non lo conosci tanto. Perché? Bene, Drago. Dice di dirti che è in pensione. Ma sì, forse... ma lo so, ma Clint, ma lo so benissimo che sei in pensione, gli anni passano per tutti, però tu sei sempre il più figo. Adesso sì che va meglio, Drago. Questo restringe il campo a 3 o 4 mila uomini. Ma cosa dice? 3 o 4 mila uomini in che senso? Dai, abbi pazienza, un vecchietto ogni tanto straparla, Sai, Drago, ti saresti risparmiato un sacco di fatica se mi avessi detto subito che l'agente ucciso a Zurigo era Henry Buck. Ma no, Clint, non Henry Buck, è Georg Trakl, quello della poesia. Georg Trakl, poeta austriaco nato a Salisburgo nel 1887. Fai, Drago, cosa fai? Letteratura tedesca a Clint Eastwood. Tu giochi a scacchi? No. Meno male, perché nemmeno io. Ok, vabbè. Ciao. Ciao. Tu giochi a scacchi? Ci riprovo. Tu giochi a scacchi? No. Ecco, meno male, perché nemmeno io. Vabbè, io so le regole, Drago. Vuol dire no, non gioco perché so le regole, ma non ci gioco mai. Capito? Io non so nemmeno le regole e non sopporto quelli che ti fanno sempre sentire un po' cretino perché loro giocano e tu no. Insomma, mi sento veramente stupido nelle volte. Perché hai la coda di paglia, Drago. Come la coda di paglia, cosa c'entra? Sì, perché sentirsi stupidi dimostra che in fondo un po' lo si è. Ma cosa dici? Ma chi te l'ha detto? Ma sì, oppure che si è così insicuri da sentirsi stupidi, capito? Vabbè, io non ho mai detto di essere una cima. Comunque per gli scacchi hai ragione, io un po' di senso di inferiorità ce l'ho. Anzi, poi c'è questo nuovo fenomeno degli scacchi, Samuel, 9 anni e 11 mesi, che è già diplomato maestro negli Stati Uniti. Io non so nemmeno distinguere le varie pedine e lui invece è già maestro. È maestro, lo si diventa dopo un sacco di tornei, devi vincere tantissimo. 9 anni e 11 mesi. Quello lì gioca tutto il giorno a scacchi, suo padre lo porta in giro come se fosse la donna barbuta, lui gioca, vince, non ride mai e così. Vabbè, 9 anni e 11 mesi è già un nerd. Eh sì, ed è la storia di tanta gente, caro Kappa, perché di nerd piccolissimi ce ne sono. E non necessariamente tutti si trasformano poi in geni. Molti marciscono prima di maturare, diventano un nerd di 15, poi un nerd di 25 e infine un nerd di 35 anni. Nerd a 35 anni. Come rimbecillire credendo di essere un intellettuale? Il virus della fruizione massiccia di prodotti culturali può trasformare un individuo qualunque in un imbecille di fama internazionale. Libri, dischi, film, software e videogiochi sono parte di un complotto su scala mondiale per de-animalizzare completamente l'uomo occidentale nel giro di poco meno di 30 anni. Se avete abbracciato totalmente il modo di consumare cultura che il sistema vi ha imposto, se in casa vostra troneggiano tutti gli oggetti culturali che vi hanno venduto come arte, se avete un'opinione ben argomentata su ognuno di questi oggetti culturali, allora sappiate che siete caduti nella trappola. I vostri figli nasceranno già con gli occhiali, già studiati e già saputi, tristi e antipatici. Siete ancora in tempo per rianimalizzarvi. Smettete di fare nerd e fate un bel rutto ogni tanto. Questo è un messaggio autogestito della Lega per la Libera Ignoranza. Aderite alla nostra Lega, che sennò qui chi se ne approfitta sono i bingo bongo, che non sono mica degli intellettuali quelli. E alle donne mica piacciono gli intellettuali, alle donne piacciono gli uomini un po' ignoranti. Pensateci, signori, pensateci. E ora, bambini, tutti a casa! Tutti a casa un corno, tutti ad aspettare di attraversare. Sì, no? Sì, tutti. Ci siamo sempre solo io, te, Tito. Allora ci deve essere qualcosa che ci sfugge, perché no, se gli altri riescono ad andare via, l'errore è aver parcheggiato al di là della strada. Vabbè, però... Sei sempre tu che vuoi parcheggiare lì, ma Drago. È l'unico posto. Appena vedi lo spiazzo, subito a dire, mettila qui, mettila qui! Vabbè. Se invece avessi pazienza di fare il giro più lungo, magari troveremo un posto comodo qui vicino, senza dover attraversare. Sì, ma è inutile che fai tutta sta cagnara, tanto è impossibile, lo sai bene, ci sono le strisce gialle, sì, non sì, si può le parcheggiare. Strisce gialle adesso. Ma sì, sono quelle riservate ai residenti. Se metti la macchina lì, torni che c'è la multa, sicuro. Vabbè, allora non ti arrabbiare se poi dobbiamo aspettare delle ore per attraversare, Tito. Ma dai, proprio adesso. Poi c'è sta puzza qui di smog, non si può proprio. Smog, chiamalo smog. Tu sempre. Mettila qui, sempre con quest'ansia. Lo so, adesso già che... bisogna attraversare. Senti, Kappa, se non parcheggiamo lì, poi cominciamo a girare in tondo per non so quanto e poi tu cominci a insultare tutti dal finestrino. Non esagerare. E si sfiora la risa, lo sai bene, dai, come quella volta che ti sei spacciato per un agente di polizia e hai fatto perfino la finta telefonata in caserma. Sì, è vero, è vero. Ecco. Ma ti sembra il caso di dire i fatti miei adesso così, cosa c'entra? È giusto per far capire a tutti qui che con te in macchina meno si sta, meglio è. A parte che io ero in Vespa, ero da solo e quindi queste cose non le faccio. Con te invece, Drago, in macchina frontale sicuro. Vabbè, andavo a 30 all'ora. Vabbè, intanto hai centrato l'Audi di un manager che doveva andare a una riunione importante, hai sfasciato il tuo paraurti, hai fatto un disastro solo perché non hai visto la svolta. Facciamo una cosa, d'ora in poi veniamo con due macchine diverse. Alla faccia dell'ecologia. Vabbè, però è meglio, dai, almeno tu fai la tua maniera e io la mia. Vabbè, ma qui facevamo il car sharing, eravamo avanti. No, invece io preferisco fare alla mia maniera, tu preferisci fare alla tua maniera. La tua maniera? Tu insulti tutti, ti spacci per agente, ma parcheggi in sosta vietata e prendi le multe. Io invece faccio i miei frontali coi manager al di là della strada e siamo tutti e due contenti, no? Mi raccomando, i frontali solo coi manager. Vabbè, certo, puoi giurarci. Cacciate la grana! Ce n'è bisogno e mandatela a chiedoasilo@radio24.it e anche i vostri na na na na na.